sto impazzendo col nuovo videogame di Super Mario sì, però è un po' frustrante perché Super alla fine Mario. tassa, paghi. E vabbè, ma devi essere così. Più veloce, come se sei più veloce, dai, pronti via. Come funziona, cioè, sono i nemici. Sì, vabbè, dai. Vai. Giocare. Vado. Manovra. Ok. Giù. Forza, dai. Ma su giù. Creare tasse. No, come creare tasse? Io. Probabile. Probabile. Ridurre tasse. Oh, bene, male, ecco, vedi che riduce. Certo che non succederà. No. Vedi. Passi davanti. Avanti. Genuflessione. Deve penetrare di più. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Oggi c'è una notizia importantissima da dare ai nostri ascoltatori. Siamo eccitatissimi. Sì, perché Chiedo Asilo, infatti, dopo mesi e mesi di grigio anonimato nel cuore degli inserzionisti, ha finalmente uno sponsor. Evviva, che bello. Grazie. Vedi K che l'audiradio clandestino alla fine funziona. Ma cosa c'entra l'audiradio clandestino? Come c'entra? Ma perché credi che sia arrivato di colpo lo sponsor? Scusa, perché io mi sono preoccupato di non perdere share nonostante il periodo vacanziero. La mia idea fissa della scorsa settimana era l'audiradio clandestino, sì, e tutto il mio da fare per compiacere il pubblico ha portato a questo grande risultato. Vabbè, okay, bravo. Però quello che conta è che finalmente non siamo più una mosca bianca nella programmazione della radio, anche noi possiamo dire di avere lo sponsor. Anzi, bisogna ricominciare tutto da capo. Dai, via. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Tutto un altro effetto. Sì, Wunderwaffer è una merendina molto buona che consigliamo a tutti. Poi K, ma com'è che si fa il product placement? Cioè, va bene avere lo sponsor, però non è che ci hanno detto bene su come fare tutte queste cose, promozioni. Non abbiamo mai fatto prima. Vabbè, ma adesso ci pensiamo, no? Intanto bisogna tirare su tutto l'ambaradan, no? Dal product placement alle radiovendite, bisogna fare tutto. Le radiovendite. Sono come le televendite, solo che sono alla radio, Drago. Bisogna fare. Come funziona? Come le televendite. Ma scusa, le televendite sono degli sketch di pochi minuti che hanno gli stessi protagonisti del programma che sta andando in onda. Ecco, no? Quindi a noi toccherà fare questa. No, Drago, non ti lamentare, abbiamo lo sponsor. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Allora, avremo pure lo sponsor, però io continuo a avere i miei dubbi. Ma no, signor Drago, sempre i dubbi. Ma scusa, ma hanno capito questi signori della Wunderwaffer che questa è una radio news and talk? Sì, ma con un pubblico forse sono stati ingannati dal nome del programma, no? Credono che sia un programma per bambini. Ho capito. Però non so se il pubblico di commercialisti, operatori di borsa, sia quello adatto per una merendina. Ma ne frega, Drago, l'importante è che mollino il grano. Hai ragione. No? Dunque, Wunderwaffer. Wunderwaffer, una merendina ideale per staccare, capito? Ma per staccare cosa, Drago? Il ponte del dentista? Ma no, cosa staccare? Staccare nel senso di fare un break. Sei nel mezzo di un litigioso consiglio di amministrazione e sei depresso perché la tua segretaria ti ha mollato per uno che porta le pizze ma ha 30 anni in meno di te. Mangia un Wunderwaffer e vedrai che la vita ti sorriderà. No, si può fare di meglio. Poi dopo proviamo con la televendita. Radiovendita. E ora, bambini, ricreazione. Oh, bambino Alberto, bello pronto per un'intervista. Bello carico. Non so niente. Cosa no? La stanchezza. Sono stressato. Ma sei un bambino, non puoi essere stressato, stanco. Dovresti essere iperattivo, sprizzare energia. Dovrei. Dovresti. Se non ci fosse la levataccia e la straccata che mi tocca fare tutte le mattine. Ma da quale levataccia? Abiti vicino all'asilo. L'asilo, insomma, è alle 8:30 comincia, quindi che levataccia? Alle 8:15 ti svegli e vieni. È quello che dico anch'io. Invece? Sì, ma da alcuni giorni i miei genitori hanno deciso di farmi andare all'asilo con lo scuolabus, no? Ancora meglio. Col bus. Così almeno loro non devono mai per nessun motivo dovermi accompagnare in macchina. Vabbè. Lo fanno per risparmiare i soldi. Vabbè, la benzina costa cara, Alberto, c'è la crisi. E poi scusa, lo scuolabus non va bene, ti passa a prendere sotto casa, comodo, con gli altri bambini. Eh sì, ma passa a prendermi alle 6 del mattino, Ma come alle 6? È per forza. Siamo in 50. Che prendiamo lo scuolabus, no? E abbiamo avuto l'abilitazione allo scuolabus. E quindi? È l'autista ora che ci prende tutti. Arriviamo all'asilo appena in tempo per 8:30, no? Vabbè, ma scusa, tu abiti vicino. Eh no, io sono il primo. L'autista, Aldo, abita nel mio condominio, no? Ah. E quindi lui pretende che io mi alzi all'alba perché lui fa girare le scatole e dover tornare indietro eventualmente a prendermi, no? No, ma è assurdo, cioè, ma i tuoi lo sanno di questa situazione? Certo che lo sanno, Aldo, sono anche contenti che così si possono liberare di me prestissimo, non devono anche alzarsi, capito? Ma come, ma vabbè, qui sei il solito. Esco che loro dormono ancora. Ma cioè, tu esci, loro sono a letto, chi ti veste, la colazione, come fai? Eh no, allora, per questo problema mi preparano la sera prima, no? Cioè? La sera prima. Mia madre mi veste la sera prima. Come? Con certe cose da solo non riesco a metterle. Mi veste e dormo vestito. Ma non è. Ma con non le è... scarpe, ma con. Con tutto. Ma va bene. Pensate che a me piaccia? No, non lo so, immagino anche a chi vive con te, perché sono a dormire vestito dopo un po'. Ma poi, e la colazione come fai? Vabbè, no, la colazione la faccio fuori, la faccio con Aldo, no? Ah, ok. Sì, perché appena parti ci fermiamo per strada, che c'è il suo bar, no? Quello lì lui va a giocare a biliardo. Alle 6 del mattino, no? E facciamo colazione, no? Okay. Cioè io prendo quello che prende lui, no? Cioè? Prendo il caffè. Come il caffè? Sì, ma però prendi... corretto, Ma c'è il latte, ma com'è corretto? Col latte? Macchiato? No, allora, lui corretto Fernet. E io corretto Vov. Ma come Vov? Lui dice che le uova fanno bene i bambini, ma fanno crescere forte. Mattina, sì, ma c'è anche l'alcol. Ma una brioche no? No, a digiuno, digiuno. Quindi io praticamente alle 6.05 ho già angolato un caffè al Vov. Sì. Quindi saliamo sul bus, no? In condizioni pietose, no? Certo, voglio dire, alcol, caffè, vestito, nemmeno una. Non so, nemmeno una sciacquata di faccia. Via. Tutte le mattine alla tua età, una cosa disastrosa. Ma no, mica sono io, Perché? Anche Aldo è messo male, Vabbè. E perché dopo il caffè si fa due quantre. Ma come? Il quantre? Sì. Il quantre. Ma si mette alla guida dello scuolabus ubriaco marcio, ma è una trappola per i bambini. Ma no, per quello non c'è problema, perché lui regge bene, Basta non farlo parlare. Ah, non bisogna rivolgere la parola all'autista, questa è una vecchia regola. Comunque, tornando a bomba, allora, 6.05 sono sul bus. Sì. Con la nausea, il mal di testa, ovviamente. Due ore e venti di viaggio con la nausea, no? Quindi un incubo. Un incubo. Pieno di bambini che anche loro dormito vestiti. No, loro tranquilli, che fanno casino, lui ubriaco, ancora peggio, capito? Quindi ci scarica davanti all'asilo. Sì. Gli altri bambini tutti asili. Vedi. E io no, è stato comatoso. Una stanchezza tremenda, Ci credo. Cioè, secondo voi questo tran tran quotidiano non giustifica lo stress? No, certo, è un problema, però insomma non sarai l'unico, parlane con gli altri bambini. Sì, con i genitori. Invece. Ma come sì? Perché Aldo deve uscire alle 6, non solo per fare in tempo a portare i bambini all'asilo, ma perché lui fa un lavoro extra, in nero, col bus della scuola, fa delle consegne, no? Ma cosa dice? Ma queste sono... dove le inventa? E siccome non vuole assolutamente, per nessun motivo, ripassare da casa, io devo andare con lui. Ho capito. Per forza, però sto cercando, mi è venuta un'idea, sto cercando di rimediare. Sto cercando di convincere i miei a farmi dormire sempre a casa di Gildo, no? E perché lui abita vicinissimo all'asilo, è l'ultimo. Del giro. L'ultimo del giro, lui alle 8.24 è giù e lo porta lì un minuto, quello dorme fino alle 8.15. Quindi se io dormo a casa di Gildo, ho risolto, no? Sì, infatti, ma sarebbe anche divertente poi alla fine dormire con Gildo nella sua cameretta, insomma. Ma se Gildo non esiste, alla fine, allora, dormire in una casa allora, vuota. Divertente sì. Una volta, due, si gioca, poi c'è l'ebbrezza dove dormo fuori casa. Sì. Però fino a un certo punto, anche perché poi ognuno ha la sua intimità. No, vabbè, ma che bambino è. Quindi pensavo l'alternativa era dormire in camera della signora Milfia, no? Però scusa, anche in quel caso ognuno dovrebbe avere la propria intimità, quindi... Tu e la signora Milfia. Chi dorme con me nel letto dentro. Però non avete la vostra intimità, ce l'avete di coppia. Però sì, insomma, non so se la signora Milfia sarebbe tanto contenta. Quindi. Vabbè, questo si vede, sono un bambino. Se puta caso non mi volesse nel lettone, per un qualsiasi motivo non posso dormire. No, nel lettone. Non vedo cosa ci sarebbe di strano. Ma l'abbiamo detto. Comunque, si potrebbe mettere una brandina, no? Una brandina al campeggio. Brandina, sì, ma tu. Una brandina tipo quella dei cani, no? Che quando uno c'ha un cane un po' grande. Brandina. No. Brandina! È tipo campeggio, no? Adesso. Tipo campeggio. Parla. Ce l'avete, Gildo? Ma no, Gildo. Ce l'avete una brandina? Una brandina, magari il solaio. Lo stress, lui si stressa e poi si immagina. A dormire. Gli stati di allucinazione. Vengo a dormire da te tutte le sere. È un po' stress. Secondo me dobbiamo trovare qualche medicina, qualcosa. Di sforzo. Un amico vero, che io non frega sempre. Dormiamo insieme. C'è colazione a casa tua. Però io dormo e tu dormi nella tua cameretta. Tu. E io dormo di là, no? Con tua madre. Mamma! Mamma, signora, per me è la signora Milfia, no? Wunderwaffe, Wunderwaffe. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Ah, salutiamo il nostro sponsor Wunderwaffer dalla Svizzera, una merendina che ha tutte le caratteristiche. Forse dobbiamo dire più Wunderwaffer, la caratteristica, tutte le caratteristiche della buona merendina svizzera. Ma quindi latte. Non ti addentrare in queste cose, non sappiamo, non abbiamo ancora la comunicazione ufficiale. Ma ci deve arrivare dalla Svizzera via fax. Come facciamo a non parlare del prodotto se il nostro cioè, un attimo, qualcosa. È partito intanto con la musichetta, lo Wunderwaffer. Stai lì, basta, un attimo. Un attimo.